l'ho ribattezzato Amerigo Vespucci Mariotti. Va benissimo, va benissimo, così, va bene, come va vuoi, bene, come vuoi. È l'importante è che ci sia Amerigo. Esatto. Poi il resto... Amerigo, quasi Almerico, che invece lo possiamo dire, spoileriamo anche vai, su spoileriamo. Almerico. Possiamo spoilerare il nome è di... È il nome del figlio di Mia, Schio, mm-hmm. Supiei, che yeah, ogni tanto che ci ascolta. Benvenuto Almerico. Benvenuto al mondo. Mm. E siamo anche... In bocca al lupo. Viva il lupo. Siamo anche con Marta Coelho. Sì. Ho detto bene? Giustissimo. Ah, meno male. Allora. Che non è parente di Paolo Coelho. Bensì la figlia. Bensì la figlia di... è la figlia di un altro Paolo Coelho. Esatto. Come dicevo prima, l'ho aspettato per anni a Natale, pensando che arrivasse a un certo punto... E invece come si è mai palesato. Come è avvenuto il tuo incontro con l'altro Paolo Coelho? Cioè, come hai fatto a sapere che esisteva un altro Paolo? Ti è stato detto subito alla nascita, guarda, sei figlia del Paolo Coelho, sì, meno famoso? No, mia mamma aveva comprato il libro apposta appunto per questo gioco di nomi e io ho chiesto, quindi è un cugino, eh? Dopo tanti anni di attesa mi hanno detto, ah no no, lui è spagnolo, non c'entra niente. Non c'entra niente. Comunque, però abbiamo anche, gli aerei lo stesso. Anche quando registriamo riusciamo ad avere il rumore degli aerei lo stesso. È bellissimo, cioè fa parte, c'è proprio una traccia apposta, no? Con l'aereo registrato che... Benissimo. E dunque di cosa parliamo stasera? E dunque stasera parliamo... Chiara, visto che siamo qua tutti per te. Siete tutti qua per me, ma anche un po' per Amerigo, veramente. Ma soprattutto per te. Ma soprattutto per me per Marta. Per Marta, perché poi l'obiettivo è quello, perché sì. Marta è, lo diciamo subito, una studentessa dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna, studentessa del biennio di scultura, e coraggiosa studentessa del biennio di scultura, dopo ci spiegherà perché. E siamo qua per parlare di Fuori Registro, rivista di pedagogia e arte contemporanea, di cui esce il quarto numero, è uscito, è stato presentato da poco a Milano a The Art Chapter dalle nostre editrici Boat, che è una rivista di cui faccio parte della redazione. Per cui siamo in pieno conflitto di interessi di nuovo. Clamoroso, ma abbiamo aperto un po' così questo 2025, perché c'è stata la puntata del 50. Cos'era? Quanti anni? Dillo tu, Pasquini, della radio? Dei 50 anni di Radio Città Fujiko. Sono veramente 50? Certo. Dal 1975. Caspiterina. Perché io, siccome sono una donna del Novecento, se tu mi dici 90 anni, 50 anni, io penso subito agli anni 50 del Novecento. Cioè, anche Amerigo Mariotti. Essendo stata prof di matematica, fatto di un'amica di Nicola. Sei stata proprio matematico. Sì, me l'ha detto oggi. Caspita, chi è? Ilaria, però non mi ricordo, cioè non mi ha detto il cognome, per cui è... Dov'è? A Castelmaggiore o qui qua, a Bologna? A Bologna. Allora bene, allora avrà parlato, ha parlato bene o ha parlato male? Sì, ha detto che eri brava. Ah, sì. Non sì, cattiva? Sì. Non cattiva. No. Le prof dovrebbero essere tutte cattive. Io stavo guardando le email di Cox Spaziale per capire se potevamo mettere delle menzioni della settimana prossima, ma ho trovato solo Ababo White Night sabato 8 febbraio, che è passato da un bel pezzo ormai. Ormai sì. Oppure quest'altro che dice è iniziato Art City 2025. Beh, questo è ancora più passato, questo è il trapassato remoto ormai, la siamo lasciata alle spallone ormai. Infatti. Diciamo che ormai dopo... No, perché noi, oltre a non essere in diretta oggi, che è il 17 febbraio, parliamo di una cosa che avverrà la settimana dopo. Cioè, quindi siamo completamente sfasati. Fuori sincrono. Completamente fuori sincrono. Ogni tanto quasi succede. Fuori sedia. Quasi fuori sedia. Che salutiamo. Che salutiamo le fuori sedia. Ciao ragazze. Ciao. Scusate. Vedi, quando fuori tu sedia. Parli così diventa tutto rosso. Quando parlo io? No, lui. Quando parlo io? Sì. Ciao, sei un po' troppo, vedi, quella è già un po' di sedia. Ma okay, va bene. Okay, cioè, non succede niente. Tanto c'è spesso, che il passa basso. Sia protesi qua che fanno la voce. E quindi insomma fuori registro, fuori sedia, quindi c'è una coerenza, diciamo così, di etimologica dell'essere fuori sedia, che sono anche loro, secondo me, uno dei nostri punti di riferimento da quest'anno, assolutamente il mio, sono centralissimi per la mia esistenza, le saluto e le ringrazio, loro sanno perché. E, fuori registro, invece questo quarto numero riguarda poi un po' tutti, cioè posso autospezzare una lancia devi farlo. Siamo qui per questo, perché spezza tutte le lance, è vero che sì, è conflitto di interessi, però non stiamo parlando di una mia mostra, e soprattutto fuori registro il quarto numero si intitola Corpo Docente, e quindi si parla di insegnamento, di tutti gli ordini. In questo numero affrontiamo tutti gli ordini di scuola, dall'asilo fino all'università della terza età, quindi meraviglia. Quindi sì, cioè, e Marta è qui per questo, involontariamente, ma è qui per questo, dai. È qui per questo, in qualità di studente. Di studente. Che quindi noi adesso magari racconteremo un po' come è fatto il numero. Prima dico subito che fanno parte di Fuori Registro. Adesso sto cercando disperatamente la redazione, perché poi sai, in queste situazioni uno magari è un po' emozionato. No, ce l'ho davanti a me, adesso l'ho trovata. E si dimentica magari la carissima amica che fa parte della redazione di Fuori Registro. Succede spesso anche a me. Con cui magari hai parlato il pomeriggio e dice: scusa, ma come... E allora sono in redazione Federica Cimatti, la nostra editor, Emma Dotti, che si occupa dei social. Anche lei è giovane studentessa neodiplomata all'Accademia di Belle Arti di Brera, anche lei è scultura, quindi tua collega, non so se la conosce. No. Artisticamente. Paola Gaggiotti, artista, educatrice, esperta in progettazione d'arte, Donata Lazzarini, docente di Accademia all'Accademia di Belle Arti di Brera, appunto di scultura, Erika Martinazzoli, che è la nostra grafica, Chiara Pergola, che non conosco, però mi dicono... Sono io. Ah, sei tu. Come al solito. Come al solito. E Maria Rosa Sossai, che è invece stata docente per molti anni e ricercatrice nel campo delle politiche dell'educazione e dei progetti di comunità. Nostre editrici sono Federica Borangina e Giulia Brivio, sotto il nome di Boat. E questa rivista la presentiamo insieme ad una iniziativa fantastica ad adiacenze, segnatevi bene la data, mercoledì 26 febbraio. Ecco. In coro. Cosa ti ha spinto, Amerigo, ad accettare la nostra proposta di presentare Fuori Registro negli spazi di adiacenze? Vabbè, innanzitutto conoscevo Fuori Registro, quindi insomma mi faceva molto piacere darvi spazio e avere l'opportunità di presentare questo nuovo numero che in qualche modo mi tocca, non perché io insomma faccia parte di nessun corpo docente, non sono neanche più studente, ma lavoro tantissimo con i professori dell'Accademia, dell'Università, e lavoro tantissimo con gli studenti dell'Accademia. Quindi hai un po' una vocazione di formare, perché diciamo qualcosa di più su adiacenze. Adiacenze è uno spazio dedicato alla ricerca e alla produzione nell'ambito dell'arte contemporanea, e da sempre la prima vocazione è stata quella di lavorare con gli artisti emergenti, quindi molti dei quali erano magari ancora studenti dell'Accademia. Da lì poi insomma si parte per un lungo viaggio, nel senso che si lavora insieme a loro per tanto tempo, addirittura per anni, per accompagnarli all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Ci si prende per mano e si rischia insieme, e si inizia a strutturare insieme a loro nuovi progetti da realizzare o nei nostri spazi o negli spazi esterni. Poi negli anni siamo migliorati, nel senso che non abbiamo lavorato solo nei nostri spazi, ma ora riusciamo a lavorare anche all'esterno, proponendo appunto progetti di giovani artisti in istituzioni museali o fondazioni private o pubblico-private in Italia o all'estero, oltre alle varie residenze che facciamo. Quindi insomma conosco e sono molto affezionato appunto al mondo accademico, sia per quanto riguarda, ripeto, i professori, perché molti sono amici, molti professori sono stati studenti, sono degli artisti con cui abbiamo lavorato e lavoriamo, ma soprattutto con i giovani studenti che poi saranno i futuri artisti del mondo appunto artistico contemporaneo. Quindi ero molto legato. quindi fa così, lo sai, sei già stato in radio. Esatto, poi vi abbasso. That night you had to choose. All right. I would like to know, where did you go out last night? Was it such delight, was it such delight to keep me in the dark, keep me in the dark, whilst you lit the spark of another heart? Oh, you kept me waiting there, wondering in despair if I'd been wrong, 'cause it doesn't make sense to me anymore. And now you're lying here with no remorse. I should call you a liar, cheater. It was a lover's dance for two. All the times I said I love you are gone for good. I wish I could regret falling in love with you. Falling in love with you. Falling in love with you. I would like to know, why did you go and break my heart? Our memories torn apart on a Sunday night. On a Sunday night, was that pleasure really worth the price? When you broke down into tears, confirming all my fears. Ci ritorniamo. Ci ridà la parola, Pasquini. Grazie, Pasquini. Ha detto Pasquini che sta zitto tutta la puntata, però poi in per realtà protesta. Interrompe per protesta, perché secondo lui è conflitto di interessi. Ah, però una domanda sul suo legame con adiacenza, no, con il mondo accademico. Nessun legame di qualunque di alcun tipo. Beh, direi con i suoi studenti. Un legame di se non altro la pagnotta, dai. La pagnotta. L'arrivare a fine mese. C'è qualcosa che ti diverte nel fare il professore? Beh, tutto. Wow. Dell'accademia. È bellissimo fare professore di accademia. Sì, è il mestiere più bello del mondo. Oggi ho fatto piangere una studentessa. Questo è, cioè, noi ti chiediamo. Di gioia? Di gioia o. È quello, l'ho fatta piangere di gioia. Ah, di gioia. Oh. Come ieri, come ieri, che questo ieri sarebbe il dì, lo dico per gli ascoltatori, quando io dico ieri, adesso sono disorientata temporalmente. Mi riferisco al 10 febbraio, in cui avevamo ospite Simone Benegoi, che ci ha raccontato però fuori onda che un artista aveva pianto di gioia perché una giovanissima artista le hanno comprato tutto, non so, cavolo, è vero. E si è emozionata, ce lo raccontava andando. Sono belle cose, sono belle cose. E quindi tu oggi hai fatto piangere di gioia una studentessa, perché? Perché l'ho detto che era brava. No. Beh, è stato facile. In effetti è stato facile. A volte basta poco. No, in effetti a volte basta veramente poco. Bene, fantastico. Ma io ti volevo ricordare che abbiamo anche questa descrizione di che cos'è fuori registro. No, però non è quello. Prima dobbiamo introdurre un attimo, perché Paola Gaggiotti mm-hmm. ha registrato per noi un breve audio mm-hmm. in cui parla però di mercato nero. Ah, ok. Mercato nero, faccio un breve riassunto delle puntate precedenti, era il titolo del numero 3, quindi il numero precedente di fuori registro. Mm-hmm. E prendeva proprio il titolo da questo progetto di Paola Gaggiotti, che noi, venendo a presentare da Diacenze, che ha anche uno spazio espositivo, il quarto numero Corpo Docente, abbiamo pensato di riattivare e quindi di mantenere un legame con il numero precedente, che si chiama Mercato Nero, facendo appunto la mostra di Mercato Nero. E quindi, se vuoi, adesso puoi dare la parola a Paola, che spiega che cos'è Mercato Nero. Mercato Nero è il progetto, intendo dire. Mercato Nero la rivista. Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sono Paola Gaggiotti e vi parlo di Mercato Nero, un progetto artistico collaborativo che mette in discussione le dinamiche speculative del mercato dell'arte. Mi sono chiesta che cosa succederebbe se un'opera d'arte venisse sottratta al mercato tradizionale e venduta a un prezzo bloccato. Mercato Nero è stata la mia risposta che ho concepito in dialogo con altre persone del mondo dell'arte. E Mercato Nero è un piccolo gesto di riflessione in un sistema che spesso denuncia il capitalismo come il suo peggior nemico. Questo lo troviamo in tanti temi delle opere che vediamo nelle mostre, nei musei, e però poi finiscono per esserne complici. E Mercato Nero nasce per creare un nuovo collezionismo democratico e accessibile e dove il valore dell'opera cresce solo a livello affettivo grazie alla relazione tra l'acquirente e l'opera stessa. Gli artisti coinvolti accettano di vendere le loro opere con prezzi fissi e con contratti speciali che impediscono la speculazione. Seleziono e selezioniamo sempre in dialogo ogni opera con cura, cercando di porre attenzione ai contenuti, alla ricerca, ma anche alla sostenibilità dei costi di produzione. Cerchiamo di organizzare eventi al di fuori dei circuiti tradizionali per creare spazi di incontro e confronto, aprendo il mercato dell'arte a un pubblico più ampio, ma anche per cercare di rimanere fuori da un sistema che poi alla fine denunciamo e denuncio. Un aspetto importante del progetto è che l'artista entra in contatto diretto con il collezionista e a Mercato Nero viene riconosciuto il 20% del valore dell'opera. Questo 20% viene reinvestito nei successivi progetti. Io stessa ci guadagno se vendo una mia opera, ma lascio comunque il mio 20% al progetto. Questa edizione in mostra da Diacenza è curata da me e Chiara Pergola, con la partecipazione di molti artisti che hanno deciso di condividere questa visione togliendo una delle loro opere dal mercato. Ho chiesto appunto a tutti quanti di provare a fare un piccolo gesto che non cambierà le loro vite, il loro mercato, ma che forse può contribuire a condizionare il pensiero di chi entra in contatto con questo progetto. Nelle edizioni precedenti ho collaborato con Concetta Modica e con Angelo Leonardo abbiamo concepito una mostra su un volantino utilizzando la grafica dei supermercati, e con loro, e così come adesso con Chiara, sto contribuendo a far crescere il progetto nel tempo. Ci vediamo appunto il 26 febbraio, spero di vedervi tutti da Diacenza a Bologna. Ciao! Hai capito? Eccoci qua, e qui entra in ballo Pasquini, perché nella mostra Mercato Nero, che accompagnerà la presentazione di Fuori Registro 4, ci sono Corpo anch'io. Docente, ci sei anche tu. Sei anche tu, che mi hai appena consegnato un'opera grande ma leggera, che non so cos'è perché L'hai aperta. Ma no. No, ma era aperta, bastava solo sfilare. Paola Gaggiotti dice che questa operazione potrebbe non sconvolgere le vite degli artisti che sono partecipano. Sono Cesare Pietro Giusti, sì. E stai ascoltando Coxo Spaziale. Volevi dire che dobbiamo già, che c'è già la pubblicità? No. Volevo dire che c'è già la pubblicità, non ancora. Comunque, allora finiamo di esprimere il concetto che ha interrotto Emerigo per già la terza volta. Oh, la gaggia. No, perché, ma è così, è normale. Gli sono antipatici gli abruzzesi. Paola Gaggiotti dice che questa cosa, cioè che Mercato Nero potrebbe non sconvolgere la vita degli artisti che ne fanno parte, e invece non è vero, perché creando un mercato alternativo potrebbe cambiare, potrebbe la vita. Potrebbe esatto. Modificare un po', se questa modalità si diffonde e risultasse stranamente sostenibile, perché dico stranamente perché siamo tutti qua che ci sempre barcanimeniamo, potrebbe effettivamente cambiare gli equilibri. Corso spaziale. Un altro mercato. Io non ho capito niente. Cioè, pensieri in libertà, cerchiamo di mettere ordine, poi Pasquini interviene, taglia, disordina tutto, cambia l'ordine dei fattori, e a Coxo Spaziale cambiando l'ordine dei fattori cambia anche il risultato. Ah, in questo caso, in questo giustamente caso. Una volta che abbiamo fatto una puntata registrata siamo riusciti a fare che Fedor la trasmettesse la seconda parte prima della prima e viceversa, non si è capito più niente. Bellissima questa cosa, una specie di cadavere squisito radiofonico, sì, molto bello. Beh, si potrebbe fare però questa cosa, sì, il cadavere squisito radiofonico. Una puntata a Pasquini, vengo apposta da Firenze per registrare o per farla o per... Molto bene. Comunque facciamo un po' d'ordine. Questa è Coxo Spaziale, intanto siete su Radio Città Fujiko 103.1 FM, che esiste da 50 anni. Esatto, e questa è la 519esima puntata invece della trasmissione che Coxo Spaziale, da 10. Che ne esiste da 10. Spaventoso. In cui prima... Io sono Chiara Pergola. Prima c'era Chiara Pergola con Fedra Boscaro, poi ancora Chiara Pergola con Chiara Pergola, mm-hmm, e poi alla fine Chiara Pergola con Giulia Quadrelli e Stefano W. Pasquini. Ok. Fatto. A posto. Poi parlavamo di Fuori Registro, che è questa rivista Che presenteremo a Piacenza il 26 di febbraio. Esatto, il 26 di febbraio, dal titolo Corpo Docente. Io sto nel pubblico, giusto, in questo caso, sì. Ma tu non sei mai nel pubblico, okay. Tu sei sempre protagonista. Che forse non sei, cioè sarai nei comunicati stampa come artista di mercato nero, però stiamo già facendo casino, già scomilato tutto. Sei veramente un punk proprio, non c'è niente da fare. Oltre Fuori Registro presenteremo anche il mercato nero. Okay. Quindi Fuori Registro e mercato nero, che relazione hanno? Hanno questa relazione che il numero precedente, questo, il quarto numero di Fuori Registro di cui parliamo ad adiacenza il 26 febbraio alle ore 18 insieme a Chiara Pergola, che sono io, Donata Lazzarini, che sei tu, e Paola Gaggiotti, che è Amerigo. e anche insieme a Enrico Fornaroli, direttore dell'Accademia, perché che è Marta giustamente, che studia lì, perché abbiamo affrontato tra i vari ordini di scuole, anche quello delle accademie, a cui abbiamo dato uno spazio centrale, e abbiamo posto ad alcune docenti di accademia delle domande sul futuro delle accademie, domande che poi magari andiamo a vedere con Marta, insomma, se le sembrano domande pertinenti. Fuori Registro, il numero precedente, quindi questo è il Corpo Docente, il numero 3 invece era proprio, aveva il titolo Mercato Nero, e prendeva il titolo da questo progetto di Paola Gaggiotti, che ci ha rilasciato qualche informazione in un breve audio andato in onda da poco, quindi forse ve lo ricordate ancora se state ascoltando la puntata nell'ordine giusto, o se avete la memoria breve, al contrario di me, di Pasquini, che l'ha completamente sputtanata. Esatto. E siccome questo progetto consiste nel proporre delle opere in vendita ad un prezzo sul quale non si può speculare, i cui proventi in caso di vendita vanno per l'80% agli artisti e solo per il 20% al progetto Mercato Nero per la sua sostenibilità, abbiamo proposto ad Amerigo, che sia uno spazio di ricerca sia uno spazio anche espositivo, di unire le due cose. Quindi noi presenteremo Fuori Registro alle 18 e alla fine della presentazione, diciamo 19-19.30, inauguriamo Mercato Nero, che rimarrà su fino al 15 di marzo. Di marzo, sì. Esatto. E sono ben felice di ospitare Mercato Nero perché, come dicevamo prima, Adiacenze è molto sensibile a questo tema, nel senso che da sempre Adiacenze ha scelto di non occuparsi di mercato, ma di curatela, di ricerca, appunto, di produzione, ma è di mercato perché ci sono le gallerie. Quindi nel frattempo Pasquini fa foto. Nel frattempo ti faccio la classica domanda, ma come campa Adiacenze? Come campa Adiacenze? Adiacenze campa attraverso bandi, attraverso i progetti curatoriali che noi vendiamo. Sì, noi Ma come? Non campate d'aria e d'amore? Anche, oddio, l'aria di Bologna non è così sana, però... Neanche l'amore di d'aria Bologna. Inquinata. Neanche l'amore, ultimamente è abbastanza sana. Tossico. Però, d'aria inquinata e di amore tossico. È cioè, bellissimo. Bellissimo. È la nuova canzone indie di Calcutta. Ti è piaciuto Sanremo? Guarda, muoviamoci perché sta per iniziare la prima puntata. Esatto. Ok. Comunque... Insomma, sì, come campa? Adiascenze campa lavorando con progetti curatoriali insieme ad artisti, progetti che hanno una gestazione di minimo 6 mesi, massimo come quello che stiamo ospitando adesso, Children of Infinity, di 2 anni, che poi noi presentiamo a istituzioni pubblico-private con cui corriamo, presentiamo a bandi e che ci aiutano a tirare avanti, a sostenere il progetto. Quindi insomma un po' sulla falsariga di quello che in realtà è molto diffuso in Europa, cioè certo, i centri di ricerca artistica, che sono un po' il perno, sì. Che in Italia ce ne sono sicuramente anche altri, sì, io sì, adesso qua nelle nostre zone conosco per esempio il progetto Radart, non so, sì, se ne hai sentito, sì. Di Anton Roca, che ha dei rapporti soprattutto di partenariato con il Canada, sì, col Quebec in particolare, sì. Sì, beh, fuori d'Italia sono, direi, non so, molto più diffusi, molto più diffusi, ma vabbè, ma perché magari a livello internazionale spazi come il nostro sono sono istituzionalizzati. Perché sì, insomma sono Quebec anche sostenuti proprio con proventi pubblici, esatto, volevo dire quello, esatto, che non è male secondo esatto, me esatto, quindi... E tra l'altro scusa, ti interrompo perché volevo chiedere una cosa a Marta, che ora studia a Bologna ma ha un'esperienza anche di studio all'estero, perché hai studiato a Ginevra, esatto, e a Ginevra, quindi in Svizzera forse è più diffusa questa situazione, sono sostenute pubblicamente dei centri di ricerca dopo l'accademia, o hai avuto modo di indagare questo aspetto o no, perché no, sei no, tornata no. qua e... Sì, anche forse perché già sapevo che finito il triennio lì volevo spostarmi altrove, quindi va bene, non ti sei informata, sì. Ho fatto una nuova, scusa se ti ho fatto una mi cogliete impreparata, ti colgo impreparata, ma c'è sempre tempo per tornare a Ginevra, esatto, dai, e informarti. E quindi, Insomma, sì, l'ambito del mercato, del sistema dell'arte mi è caro, perché noi abbiamo scelto di non farne parte, ma anche perché io stimo molto il lavoro del gallerista. È molto difficile saper vendere opere d'arte, è davvero molto difficile, quindi chi lo fa bene, lo sa fare, ha tutta la mia stima. Ciò non toglie che un mercato alternativo può esistere. Ho imparato che si possono acquistare capi di abbigliamento senza provarli online, non ci avrei mai creduto se me l'avessero detto 30 anni fa. Quindi adesso diciamo che il maglione di Amerigo stasera sembra un po' il nostro mixer come colori, è vero? Sì, ma non l'ho comprato online, perché ho bisogno di provarle, le cose sono un po'. Un vecchio stampo. Marta mi guarda male, ma è così. No. Però ecco, quindi un mercato alternativo, un mercato nuovo, un mercato pensato dagli artisti può aiutare gli artisti stessi e di conseguenza può aiutare tutto il sistema dell'arte. Quindi anche noi curatori o anche le persone che lavorano nel sistema dell'arte. Del resto... Cioè, se non lo fanno gli artisti, di pensare a un altro mondo possibile, chi lo deve fare? Assolutamente, certo. Io sono pienamente d'accordo sul... Ora, spero che nessun gallerista mi stia sentendo, ma non ci trovo nulla. Salutiamo Beppe Lufrano, ciao, che ci ascolta Beppe. Sempre. Ciao. E che insegna anche in accademia, tra l'altro. Sì, infatti. E che è stato, insomma... Un tuo mentore. Un mio mentore, ah, sì. Ah, tu sei stato studente Sì. No, ho lavorato alla Otto Gallery. Ah, per Bacco, e lì ho conosciuto la prima socia di Adiacenze, Daniela Tozzi, che salutiamo. Beppe è molto amico. Io ho conosciuto il mondo dell'arte e dunque ho deciso di non aprire una galleria commerciale. No, anzi, ho capito quant'era difficile. Ah, beh, certo, vendere non è semplice. Assolutamente. E dunque ti sei messa a fare una roba ancora più difficile. Ancora più difficile. Però insomma mi rende felice. Secondo me è molto importante invece che ci sia un po' questo cuscinetto. Questo è uno dei temi che in qualche modo affronteremo nella discussione, nella presentazione del numero, e insomma domanda che rivolgeremo anche a Enrico Fornaroli, che sarà con noi, direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna, perché questo cuscinetto, diciamo, tra il mondo della formazione, quindi dove tu fondamentalmente non ti confronti più di tanto con l'esterno, e la dimensione strettamente commerciale, che è quella delle gallerie, può essere molto importante per un giovane artista che inizia a lavorare e che deve, insomma, in qualche modo finalizzare la propria ricerca un pochino di più anche al rapporto con l'esterno, e che però magari non ha ancora consolidato tutti i parametri lavorativi, quindi perché, infatti, c'è un po' questo rischio, no? Che se si finisce subito... È lì che che interveniamo noi di Adiacenze, noi come curatori di Adiacenze, nel senso che perché mi sono cari questi due numeri, il penultimo e l'ultimo, perché noi siamo proprio in mezzo tra l'accademia, quindi tra gli artisti emergenti, e il mondo più commerciale, quindi noi li aiutiamo e lavoriamo insieme a loro nella ricerca. E quindi siete schiacciati tra Mercato Nero, fuori registro 3, tra due pagine, nello scaffale si vede emergere Amerigo, che è anche alto e smilzo, quindi ci entra nella libreria, cercando tra corpo docente Mercato Nero, cercando di creare una via commerciale che non sia direttamente legata alla vendita dell'opera, e quindi provare a fare ricerca su un progetto, strutturarlo, approfondirlo e venderlo, non so che è brutta questa parola, però ecco, venderlo a istituzioni più grandi, e quindi riuscire a campare facendo ricerca. Ma tu, Marta, che sei all'inizio del biennio o verso la fine? No, appena iniziato. Hai appena iniziato, sì, il biennio di scultura. Esatto. Come la vedi questa situazione? Si sente molto tra gli studenti la pressione per trovare immediatamente cosa la succederà galleria dopo? Ah, bruttissima domanda. Sì, sì, sì. Ma si sente in generale che l'Accademia è un po' una bolla, quindi che è ancora un mondo molto chiuso rispetto alle realtà al di fuori. Per questo, appunto, personalmente ho iniziato già a cercare delle piccole realtà in cui mi rifletto, in cui mi ritrovo, appunto come Adiacenze, che penso sia un bellissimo progetto, e sento proprio che l'Accademia ancora non dà troppe vie d'uscita. Attenta a quello che dici. No, sicuramente ci sono degli eventi che permettono di... Scusa, ti interrompo un attimo. Allora, l'Accademia di Bologna, che conosco, ho frequentato sia da studente, perché mi sono diplomata in pittura lì, che da docente, fino a che non ti abbiamo cacciato. Finché non mi avete cacciato a Firenze, dove io peraltro sono andata molto volentieri. beh, insomma, devo dire, mi trovo molto bene, quindi no, non ho proprio nulla da eccepire a questo spostamento. Investe molto comunque l'Accademia di Bologna sulla questione di mettere in contatto con le gallerie, di creare eventi espositivi, eccetera eccetera. Però mi ricordo che questo veniva anche vissuto con una certa tensione, cioè è un ansia. Con una certa ansia, perché mentre sei ancora lì che ti formi, certo, sei già lì che devi sgomitare per andare, diciamola proprio così, poi dopo magari una volta li invitiamo così e ci scusiamo pubblicamente, però tutti che sgomitano per esporre a Open Tour, alla P420 o alla 8 Gallery, eccetera, c'è molto questa situazione, o è una mia impressione falsata? Beh, lei non ha ancora vissuto Open Tour, per cui... Però ho potuto sentire l'ansia generale degli altri studenti e studentesse, quindi direi che è ancora molto reale. È ancora molto reale. Sì, sì, sì. Ecco. E se posso dire, se mi posso permettere, anche se non appartengo, ripeto, se non ti permetti a ecco, Coxa. Infatti, i professori dell'Accademia dovrebbero, più che far preoccupare gli studenti di dove esporre il prodotto artistico, quindi in quali gallerie, spingerli a fare ricerca, approfondire quello che hanno da dire, e quindi preoccuparsi di come farlo. e non preoccuparsi di dove espongo il mio prodotto, ho usato prodotto proprio perché volevo usare prodotto. No, questa cosa cioè, 30 anni fa era il contrario. Era esattamente il contrario. E difatti venivamo, cioè i professori venivano tacciati del fatto che si parlava sempre solo della ricerca e non del mondo esterno. E non del mondo esterno. Poi c'è stato un ribaltone passare per una via di mezzo, cioè proprio una senza mezzo. Magari bisogno. C'è stata una via di mezzo e noi non c'eravamo. Ma brevissima. Ecco, l'angolo della menzione. Ebbene sì. Hai trovato qualcosa? Malgrado tutto, ho trovato una menzione sola. Beh, per bacco. Mercoledì 19 febbraio, che è dopodomani, alle ore 17:30, presso la biblioteca del Mambo, si tiene la presentazione del libro Patrimonio dissidente di Cosimo Veneziano. Durante l'incontro l'autore è in dialogo con Lorenzo Balbi, direttore del Mambo, che evidentemente sarà tornato dall'Africa. Ecco. Tutto questo alla Biblioteca del Mambo in via Dominzoni 14 a Bologna. Abbiamo un'altra menzione. Infatti la fa direttamente Amerigo Mariotti. Il 19, facendo concorrenza al buon Lorenzo, presenteremo il libro A proposito dell'inizio di Luca Maffeo in dialogo con Marta Cereda, curatrice milanese. Alle 18. Alle 18. Tutto questo naturalmente ad adiacenze il vicolo Santo Spirito 1/B. Stasera era l'angolino della menzioncina proprio. L'angolino della menzioncina. Comunque, tornando al discorso che hai interrotto con l'angolino, questa è proprio una delle domande che noi porremo e che porremo a Enrico Fornaroli. Adesso, se lui ci ascolta con così tanto anticipo, magari provvederà di procurarsi un impegno inderogabile proprio quella sera, no? E ci lascerà soli con le nostre domande, ma spero di no. Salutiamo Enrico Fornaroli. E una delle domande è proprio questa: in che modo l'Accademia può consolidare e creare spazio di ricerca invece di assecondare la logica produttivistica? Questa è una delle domande che abbiamo posto all'interno della rivista. Noi abbiamo avuto la risposta, lo dico perché fa parte, diciamo, delle nostre contributors, così ho modo di ringraziarle, a Cecilia Guida dell'Accademia di Belle Arti di Brera, Fabiola Naldi dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e Alessandra Pioselli dell'Accademia di Belle Arti di Bergamo. La risposta di Amerigo Mariotti è l'ha scritta ma non si può pronunciare pubblicamente. Vediamo un po' che cosa c'è scritto. Allora facciamo così, aggiriamo un ostacolo e lanciamo un quiz. Che cosa ha scritto di impronunciabile Amerigo Mariotti che non possiamo dire in radio, in comunque diretta. Interessante questa cosa che 30 anni fa era diverso, perché mi spinge a dire quali quali importanti artisti hanno tirato fuori le accademie italiane quando si lavorava in modo diverso? Ecco, magari chiediamocelo. E quali artisti sta tirando fuori adesso? Chissà. In realtà possiamo continuare a parlare. Possiamo continuare a parlare? Sì, ho giusto bisogno io di mettere un po' di musica. Beh, la sento un po' altina, ti dirò. Mi interferisci un attimo con le mie parole, però vedi tu. Te la abbasso. Appena un attimo. E comunque, proprio per questo, pensando alla cosa che non possiamo dire, diamo un indizio ai nostri ascoltatori per il quiz. Cosa si vince a questo quiz? Se indovinano cosa aveva scritto Mariotti? Cosa si vinceva allora? Non lo so che cosa si vinceva. Sorpresa. Ma una copia di Fuori Registro 4 Corpo Docente. Diamo in premio una, che è bellissima tra l'altro la rivista, modestamente. Molto, modestamente molto bella. Sono in redazione, quindi. Però è anche bella. Ve la consiglio. E una delle domande. Beh, impaginato non è. Beh, perché non ci ha lavorato Pasquini. Scherzo. Dai, non è vero, è fatta bene. No, è fatta bene. È fatta bene anche graficamente. Esatto. E, Allora, è un bello oggetto. È un bello oggetto. Allora, una delle domande, e qui gli ascoltatori attenti forse potranno intuire dove andava a parare la risposta di Amerigo Mariotti a una domanda che non stiamo a ripetere. Meglio di no. Così sì. Confondiamo un po', è: quali strategie di reclutamento possono contribuire a individuare artiste e artisti che siano realmente interessati a trasmettere il proprio sapere ad altri nel rispetto dei diritti e senza cadere nella logica dei favoritismi? Ci stanno, Marta, queste domande secondo te? Sì, sì, annuivo in silenzio. Sì, le trovi valide? Trovi valide? Sì, perché tutto... Comunque è vero, facciamo davvero fatica a, ultimamente a selezionare giovani artisti che vengono fuori, ma non solo dall'Accademia di Bologna, dalle accademie italiane, disposti a mettersi in gioco, a studiare, a sperimentare, ad andare avanti, a fare ricerca, a capire bene cosa vogliono, cosa hanno da dire prima di confezionare il prodotto. Ma per sapere cosa si ha da dire bisogna lavorare parecchio, non è una cosa semplice costruire una poetica. Sì, una volta si spingeva proprio a non confrontarsi, esatto, prima di essere sicuri. Mi ricordo anche ai miei tempi, che non sono poi così remoti, perché io mi sono diplomata nel 2009, però avevo Davide Benati, è stato uno dei miei docenti, che diceva, no, cioè, mercato, bisogna mantenersi indipendenti, perché non si deve essere costretti a cedere compromesso. Certo che ovviamente unisci l'insicurezza generale del mondo del lavoro oggi, che non offre già di suo tantissime opportunità, e magari ancora meno a chi ha studiato in accademia e non a ingegneria, e ci metti quest'ansia qui insieme al desiderio di comunque voler mostrare quello che si fa, volersi confrontare, e ne esce questa miscela esplosiva che fa sì che gli studenti, lo ricordavo nella puntata, è la puntata precedente? No? Sì, ce ne sarà in mezzo una, no? Nella puntata precedente ricordavo questa cosa e la chiedevo a Simone Megoi, ti ricordi? No. Che avevo chiesto questa cosa sulle accademie, sul put, però non è stata capita quella domanda che avevo fatto. Che le studentesse di accademia stanno tutto il tempo dentro alla fiera perché sperano chi espone, no? Ci sono questi, certo, stand, che non voleva essere una critica alle studentesse assolutamente, anzi, ma era proprio secondo me una cosa che registra questo tipo di ansietà: non vado a vedere le mostre perché devo stare lì a cercare di intercettare la galleria. Capisco benissimo, ed è per questo che ora voglio essere ancora un po' autoreferenziale, adiacenze cerca di finanziare la ricerca degli artisti durante i nostri, ad esempio, quando facciamo le residenze all'estero, in cui diamo una fee all'artista, paghiamo viaggi, paghiamo vitto e alloggio, e diamo la possibilità a loro, ma anche a noi stessi, curatori di adiacenze, di stare con loro 3 settimane, un mese e mezzo, per lavorare, per avere tempo di lavorare e per avere anche qualche piccola risorsa economica. Io ti assicuro che molto spesso non importa questo, cioè non veniamo capiti, non lo so, non gliene frega niente, vogliono, cioè, la galleria, vogliono dove vendere il prodotto. Sì, cioè, mi chiedono, ma tu mi porti all'estero, ma lì posso vendere? Chiaramente. Certo, sì. E allora non... Non ce lo portiamo. Ma perché c'è un po' una cultura che, tra l'altro, non so, vabbè, anche questo bisognerebbe chiederlo forse, sì, non so se si riesce ad avere una risposta veramente depurata da influenze di altro genere, però quanti artisti contemporanei veramente poi riescono a vivere, pur avendo la galleria, riescono a vivere di quello che vendono con la galleria? Perché molti artisti, e questo era un po' il tema di Mercato Nero, diciamo, esatto, il numero precedente, che molti artisti hanno la galleria, espongono sistematicamente in fiera, ma poi devono insegnare in accademia o insegnare a scuola o avere un altro lavoro, una quindicina di appartamenti da mettere in affitto. Detto questo, io vi devo interrompere perché il tempo è finito. Marta ha parlato pochissimo e come al solito noi abbiamo lasciato poco spazio. Le toccherà ritornare. Tornerò.